Cataland, attrazione del giorno. Tocca il morto finché è caldo. Manda un messaggio. Dona 2 euro alle necro attrazioni. Me la fo in mezzo ai pirati. Sventola alto il teschio. Me vesto da Dracula. Accendo tutte le candele del castello. Organizzo una caccia al tesoro. Trova il cadavere, vinci la salma. Indico un sondaggio. Cremazione o inumazione. Parta il televoto. Me fo il DVD del funerale. L'audiolibro della messa. Me fo il me al di là. E il profilo Facebook post mortem. Il corpo muore, il profilo resta. Prenoto una Mercedes grigia metallizzata. Sobria ma elegante, veloce e confortevole. Ricca senza essere ostentata. Prenoto il modello coi vetri oscurati. Senza croci, sul cofano, sui vetri, sul baule. Quando passo non vuoi vedere gente che se tocca i coglioni. Prenoto una corona grande da addobbar l'Ariston a Sanremo. Me rifo le sopracciglia, me strappo i baffi, me sistemo le basette. Ritocco labbra, zigomi, zampe di gallina. Me fo l'ultima spa, idromassaggio, sauna, cromoterapia. Me butto in acqua e fo il morto. Me compro un loculo vista mare. Me fo la tomba de famea, il cimitero personale e il meangolo de paradiso, la me privacy. Non voi fiori da quattro schei che detesto, che marciscono, che puzzano. Non accerchiatemi con crisantemi che rattristano. Compro rose rosse, sempre verdi, di plastica che non ingialliscono, antiacari, antipolvere, antigelo. Che metto una foto grande di quando ero giovane, sotto i 30, senza rughe, senza ciccia, senza macchie in faccia. Una foto di quando gavea i capelli, i denti, la bocca dritta. Che metto una foto di mia al mare, sorridente, abbronzato, bello e pulito. Compro le case attorno, fo un villaggio turistico. I mega schermi passano, grand hotel, sentieri, beautiful, topazio, Dallas, un posto al sole. Non invecchiano, non crescono, non cambiano. Nascono, rinascono, risorgono. Cambiano voce, cambiano faccia, cambiano doppiatore. Sempre restano. Una musica dice che la vita continua, che domani passerà, che non bisogna lasciarsi andare, che domani è un altro giorno, che dimenticare è necessario, elaborare si deve, sostituire si può. Una filastrocca recita, se fossi un pasticcere tutte le ciambelle riuscirebbero col buco, se fossi una allodola crederei negli specchietti, se fossi un grillo non parlerei, se fossi una bugia avrei le zampe da giraffa, se fossi una pillola mi indorerei, se fossi un prosciutto fodererei gli occhi, se fossi un orecchio sarei da mercante, se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io annegherei, se fosse Dio manderei nel profondo, se fosse Papa sarei all'orgio fondo, che tutti i cristiani embrigarei, se fosse Imperator sa che farei, a tutti mozzarei lo capo a tondo, se fosse morte andare da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similamente farei da mia madre, se fosse cieco come io sono e fui, torrei le donne, giovani e leggiadre, le vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io annegherei, se fosse Dio manderei nel profondo. Se fosse Papa sarei all'orgio fondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse Imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo al fondo. Se fosse morte andrei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similmente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torre le donne, giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei. resterei, se fosse acqua l'annegherei, se fosse Dio manderei le profonde. C'era una volta in cui i bambini nascevano sotto i cavoli, una volta in cui i bambini li portava la cicogna. A quei tempi la mamma e il papà non facevano l'amore, non si spogliavano, non si guardavano, non si toccavano. Per divina provvidenza un giorno concepivano. Poi dopo 9 mesi arrivava la cicogna, si scendeva nei campi, si cercava sotto i cavoli, si trovava il bambino. A quei tempi i bambini un poco alla volta crescevano. La mamma e il papà un poco alla volta invecchiavano, si consumavano, si incurvavano, si ammalavano, poi un giorno morivano. Oggi la mamma e il papà scopano, trombano, si separano, le cicogne si estinguono, i cavoli in frigo marciscono. Come un tempo dopo 9 mesi i bambini nascono, come un tempo poco alla volta crescono. Ma la mamma e il papà oggi non invecchiano, si perpetuano. Poi a un certo punto partono, salutano, scompaiono, vanno a riposare in cielo, in un campo di fiori, in mezzo a un bel prato. Il prato dov'è? È vicino al campo, il campo è fiorito, di fiori è pieno il campo santo. Verso il mio pianto, su un deserto abitato, non da chi è morto, ma da chi si è eclissato, ci ha lasciato, a miglior vita è passato. Non dite morto, all'altro mondo è andato, al Creatore, mi trovate lì a tutte le ore. Chi visse sperando morì non si può dire, quella parola non la voglio sentire. Un muto dice a un sordo, c'è un cieco che ci spia. Non ho un indirizzo, non ho una via. Sto alla terza fila del quarto settore. Non piango, non rido, non mi lamento. Non soffro il caldo, non sento il vento. Mi sono spento, sono mancato. Venite, bussate, sulla soglia restate. Di penare finite, le cuoia tirate. L'ultimo respiro esalate. Venite, bussate, sulla soglia restate. Passate almeno una volta l'anno, mai nel giorno del mio compleanno. Lo spero sempre quando accendete la candela che mi portate. Ma mi concentro, conto, ascolto i passi che vanno, vengono, poco si fermano. Realizzo, capisco, un po' mi scurisco. È il giorno dato, a me destinato, il giorno comandato, il 2 novembre, il giorno dei morti, di chi ha chiuso i propri giorni, non ha più contorni, di chi è spirato, perito, trapassato, crepato, schiattato, la spugna ha gettato. Il 2 novembre, il giorno dei morti, il giorno dei morti si va al cimitero, il cimitero è la città dei morti. Ogni morto ha una tomba, la casa dei morti. Ogni casa ha un'insegna ed un lampadario. È ora di chiudere il sipario, di spegnere i riflettori, di bere il proprio assenzio. Il resto è silenzio. Ma prima che sia, prima di andar via, prima della notte mia, io chiedo, ti chiedo, dammi un decalogo per la mia morte. Sei venuto una volta, torna di nuovo, vuota il tuo sacco, rendimi edotta di cosa c'è dopo. Per la vita ho tempo, la imparo da sola, so cosa bere, cosa mangiare, so che c'è un tempo per ogni cosa. Sei morto sulla parete dietro al mio letto, morto sopra la lavagna di scuola, nel portafoglio, al collo, sopra l'altare. Mai ho pensato che un morto fosse l'oggetto del mio pregare. Ho paraocchi spessi come coltri di neve, strati di sabbia gettati negli occhi, sale e cipolle mi offuscano la vista. Io chiedo, ti chiedo, dammi un decalogo per la mia morte. Per la vita ho tempo, la imparo da sola. della mia morte. Non c'è legge che tenga, non c'è ordinamento, non c'è precetto né autorità, non esiste apparato, modello, criterio, non scorgo morale né filosofia, non conosco stato né religione. Per la vita ho tempo, la imparo da sola, so cosa bere, cosa mangiare, so che c'è un tempo per ogni cosa. Un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per ballare e un tempo per gemere, un tempo per parlare e un tempo per tacere, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace, per essere e per avere, per sognare e per agire, per sporcarsi e per lavarsi, per credere e per negare, per sudare e per godere, per il giorno e per la notte, per quel che sono e che sarò. Ninna nanna, ninna ho, questo bimbo a chi lo do? Lo darò alla befana che lo tiene una settimana, lo darò all'uomo nero che lo tiene un mese intero, lo darò al buon Gesù che lo tiene non me lo dà più, lo darò al buon Gesù che lo tiene non me lo dà più, lo darò al buon Gesù che lo tiene non me lo dà più. Thank you. scuotermi, di aggirarmi, di incularmi. Lo dico adesso, lo scrivo, pago, dovrete farlo. Basta schiacciare il grilletto. Voglio un'assicurazione sulla morte, sulla mia morte. Un'assicurazione contro la morte lenta. Non voglio corsie, medici, orari da rispettare, preti da consolare, nessun camice, nessuna flebo, nessuna siringa, niente macchine, tubi, elettricità, comfort, pulizia, niente antidolorifici, antispasmi, cure palliative, niente esperti, professionisti, tecnici, nessuna firma, nessun consenso, nessun giudice, nessun protocollo, nessuna prassi, nessuna cifra. Non diventerò il mio numero di letto, la mia cartella, i miei esami, le mie radiografie, le mie analisi del sangue. Piscio sui vostri ospedali, sui vostri ricoveri, sui vostri ospizi. Piscio sulla vostra ipocrita benevolenza, sulla vostra morale consolatoria, sulla vostra religione addomesticata. Piscio sul vostro sentimentalismo squallido, sulle vostre maratone della solidarietà, sulla vostra falsa pietà. Piscio sulla vostra scienza, sulla vostra tecnica, sulla vostra burocrazia. Non mi riciclerete, non mi donerete, non mi smembrerete, non mi farò tagliare a pezzi. Non voglio un cuore, un rene, un polmone di seconda mano. Non sono Dorian Gray, non sono Dorian Gray, non sono Dorian Gray. Voglio il mio boia. Non mi vedrete con le mutande piene di merda nuotare nel me stesso pisso. Non mi farò lavare da una troia che non sa la mia lingua. Non passerò gli ultimi anni col pannolone. stoni. Per pulire una canna dell'acqua, un getto modesto, misurato, che non schizzi le pareti. Non dovrete assistere, non dovrete ricordare nessun pellegrinaggio, nessuna visita, niente saluti. Non sarò più corpo, cenere, solo, solo cenere. Nessuno strascico, nessun intralcio, niente fiori, niente lumini, nessun inutile via vai. Solo quiete, pace, vita. Solo quiete, pace, vita. Solo quiete, pace, vita. Mi metteranno in un sacco di gomma. Mi tireranno fuori dal sacco. Non saprete mai chi mi svuoterà. Non saprete mai chi mi truccherà. Non saprete mai chi preparerà il mio corpo. Mi troverete dentro una bara, la bara che avete scelto, vestito col vestito che avete scelto, in un'urna, l'urna che avete scelto. Un prete che non mi conosce officerà il mio funerale. Dirà a tutti chi ero, cosa pensavo, quali sono stati i miei meriti e le mie qualità. Un prete che non vi conosce vi consolerà, dicendo che Dio mi ha voluto, Dio mi ha chiamato, a Dio sono tornato. Un prete che non mi conosce mi benedirà, mi accoglierà nella chiesa dei papi. Non conterà se sarai stato il mio Dio. Non conterà se mi sarò fatto idolo immagine. Non conterà se ti avrò nominato invano. Non conterà se avrò santificato la festa. Non conterà se avrò onorato il padre e la madre. Se avrò ucciso, se avrò commesso adulterio, se avrò rubato, se avrò detto falsa testimonianza, se avrò amato il mio prossimo. Sarà sufficiente che non mi sia dato la morte. La solita strada, bianca come il sale, il grano che scende, i campi da arare, guardare il giorno, se piove o c'è il sole, per saper se domani we andavano d'accordo e giocavano sempre insieme. Si rincorrevano, saltavano, mangiavano assieme. Arturo era nero con delle macchie bianche. Greta è panna. Sulle zampe e sul muso il suo pelo diventa marrone. Un giorno Arturo si è ammalato. Diventava sempre più mogio, più triste. Ma Greta sembrava quasi non se ne accorgesse. Diventava più magro, più lento. Ma Greta sembrava quasi non se ne accorgesse. Diventava più brutto, più stanco. Ma Greta sembrava quasi non se ne accorgesse. Un giorno Arturo cominciò a puzzare. Greta allora si accorse di lui. Gli soffiava, non lo voleva vedere. Gli soffiava, non lo voleva sentire. Gli soffiava, non lo voleva vicino. Arturo espulsa, espulsa de morte. La morte Greta non sa cosa sia, ma sa che c'è puzza, lo sente, la puzza di morte. Sa che lei quella puzza non la vuole sentire. Sa che se Arturo deve morire che muoia, ma lei non ne vuole sapere. Greta sta bene, questo le basta. Occhio non vede, cuore non vuole. Cuore non vuole se occhio non vede. Spussa de bestia, de stalla, de pisso, de merda, de carne, de vomito. Spussa de sangue, de smarso, de vivo. Spussa che sbatte, che strenze stomaco, de cavalcate, giri la testa, de seri occhi. Occhio non vede, cuore non vuole. Cuore non vuole se occhio non vede. Non voglio vedere mia madre morire. Non l'ho mai lavata, non l'ho mai imboccata, non l'ho mai cambiata. Sono una strega, non voglio annullarmi, appiattirmi, votarmi al suo corpo. Sono una strega, la notte mi piace dormire, la sera uscire. Sono una strega, mi piace svegliarmi col canto del gallo, col pianto di un bimbo, con la sveglia del mio compagno. Non soffro le urla, i lamenti, le continue, insensate, assillanti richieste. Sono una strega, mio padre ha la badante, è grassa, grossa, grezza, ignorante, minigonna, rossetto, sempre in mostra il petto, parla male ma si spiega, se gli do la mancia gli fa anche una sega, lo accudisce, gli parla, lo prepara, ha già messo i suoi vecchi nella bara, lo gira, lo volta, lo porta in carrozzella, se fa il bravo gli dà una caramella. Sono una strega, ogni giorno la stessa pozione. Arrivo, saluto, la bacio, la siedo, hai dormito, faccio un giro del parco. Sento la puzza, ogni giorno più forte, più intensa, più acre. È puzza che resta, s'attacca, continui a sentirla, ad odiarla. È puzza che ha corpo, voce, suono, colore. Disinfettante e piscio, disinfettante e merda, disinfettante e vomito, disinfettante e sangue. Spusa de bestia, de stala, de pisso, de merda, de carne, de vomito. Spusa de sangue, de smarso, de vivo. Spusa che sbatte, che strenze stomaco, de cavalfiate, giri la testa, de seri gli occhi. Occhio non vede, cuore non vuole. Cuore non vuole, se occhio non vede. Non voglio vedere una bestia morire. Non voglio vederla sotto i miei occhi, nel mio giardino, sospesa al mio fico. I vicini albanesi hanno una pecora in baule, viva! La legano, vela, la appendono per le zampe, vela, la issano, vela, gli tagliano la gola. Apro la finestra, urlo, che cazzo fate? È vietato, è pericoloso, è fuori legge, non è igienico, non è decoroso, non è civile, non è umano. Esistono le macellerie, i macelli, i macellai, gli agriturismi, i ristoranti, le enoteche, le salumerie, le prosciutterie, le rosticcerie, i supermercati, gli ipermercati, i posti prenotati, i superstori. Sogno una stanza piccola e buia, sporca e fredda, umida e viva. Sogno l'alito di un bue, di un asinello. Sogno il mio uomo, la mia donna, mio figlio, mia sorella, mia madre, mia nonna. Sogno l'alito di un bue, di un asinello. Non chiedo doni, magi, stelle e comete. Sogno l'alito di un bue, di un asinello. Sogno di trattenere la vita fin dove è possibile, non oltre. Non so cosa farmene di estranei attorno al mio letto. Sogno l'alito di un bue, di un asinello. Sogno qualcuno che mi parli, mi chiami per nome, mi vegli in silenzio, mi accarezzi le rughe, mi asciughi il sudore, mi bagni la fronte. Sogno un massaggio alle gambe, alle spalle. Sogno che a farlo siano mani inesperte, mani di cui conosco il calore, i calli, il peso. Sogno di piangere, di urlare, di smettere di parlare. Sogno le mura di sempre, gli odori di sempre, i suoni di sempre. Io decido di provare dolore. Io decido di avere paura. Io decido di non essere sicuro. Io decido di non sapere. Io decido di aspettare. Io decido di non intervenire. Io decido di non decidere. Sogno l'alito di un bue, di un asinello. Sogno l'ultimo respiro, lento, sofferente, rotto in gola. Sogno di raccoglierlo in un vasetto di vetro, registrarlo, trattenerlo, inciderlo su vinile. Sogno che mi entri nelle ossa, nelle vene, che mi permei, risuoni dentro di me. Sogno venga sussurrato in una conchiglia. Sogno di incollare la conchiglia al mio orecchio. Sogno i tuoi occhi aperti, dritti nei miei. Sogno un volto con tante rughe, tante pieghe. Sogno il tuo ritratto, la tua sindone, le ultime gocce del tuo sudore. Sogno di godere questo dolore. Sogno l'alito di un bue, di un asinello. Sogno che sarai tu a spogliarmi, a lavarmi, a vestirmi. Sogno che mi spazzolerai i capelli, mi chiuderai gli occhi, mi sistemerai la bocca, mi intreccerai le dita sul petto, mi adagerai nella bara. Sogno che accarezzerai il mio corpo freddo, sfiorerai il mio volto spento, bacerai la mia pelle livida. Io credo, non risorgerò. Io credo, ti aspetterò. Io credo, polvere tornerò. Sogno l'alito di un bue, di un asinello. Questa è la fine, magnifico amico. Questa è la fine, mio unico amico. La fine dei nostri piani elaborati, la fine di ogni cosa stabilita, la fine. Né salvezza o sorpresa, la fine. Non guarderò nei tuoi occhi mai più. This is the end.